L'ottavo giorno, a cura di Emiliano Enrico. Benvenuti, sono già in fila le sette notizie più importanti dell'ultima settimana, cominciata sabato scorso 6 dicembre, che si è conclusa ieri. Come sempre i servizi, le interviste e i commenti sono già andati in onda nei GR di Radio 24. Sabato. I più attenti all'ascolto si ricorderanno che la puntata della settimana scorsa era finita con gli aggiornamenti su una vicenda molto complessa e anche molto esplosiva, tornata in auge dopo un periodo, diciamo così, di raffreddamento. Si tratta della vicenda giudiziaria, ma direi soprattutto politica, che ruota attorno al PM De Magistris e alle sue inchieste in Calabria. Sabato si pronuncia il CSM nel pieno di un durissimo scontro tra le procure di Salerno e di Catanzaro. Risentiamo Vincenzo Miglietta. Incompatibilità ambientale e funzionale. Con questa motivazione la prima commissione del CSM ha deciso di avviare la procedura di trasferimento d'ufficio a carico del procuratore capo di Salerno Luigi Apicella e del procuratore generale di Catanzaro Enzo Iannelli. Un'accelerazione, quella dell'organo del Consiglio Superiore della Magistratura, apprezzata dal ministro della Giustizia Alfano e tesa a mettere fine a quella che viene definita una guerra tra procure. Una decisione tempestiva l'ha definita il presidente della prima commissione Ugo Bergamo. Nell'ambito delle audizioni sono emersi tutti gli elementi di una situazione di difficoltà nella gestione operativa, almeno potenzialmente, della giustizia in queste realtà. Si restituisce credibilità alla magistratura, ha aggiunto Bergamo. Continuerò a fare il mio lavoro finché potrò, ha commentato il procuratore di Salerno Apicella. Il numero uno della procura di Catanzaro Iannelli ha puntato invece il dito sulle perquisizioni ordinate dalla procura campana. I PM calabresi sarebbero stati anche denudati, ha detto Iannelli. Per il vicepresidente del CSM Mancino, dalle audizioni di ieri sono emerse cose sconcertanti. Le accuse, persino i colpi bassi, vanno avanti per giorni. Naturalmente anche in Parlamento salgono i toni dello scontro. Finché martedì si arriva ad un accordo, poi se si tratti di un accordo armato sarà tutto da verificare. Da Roma il servizio di Andrea Viali. Mette fine a uno scontro senza precedenti, fatto di perquisizioni e sequestri di fascicoli giudiziari, la tregua raggiunta dalle procure di Salerno e Catanzaro. Grazie all'intesa siglata dai responsabili dei due uffici, i magistrati di Catanzaro potranno ora riprendere l'inchiesta Why Not che era stata avviata da Luigi De Magistris. Quelli di Salerno potranno invece acquisire una copia degli atti che interessano la loro indagine sul presunto complotto proprio ai danni dell'ex pubblico ministero calabrese. Soddisfatto per l'accordo il presidente della Repubblica Napolitano, che ha parlato di importante passo in avanti. Intanto la prima commissione del CSM, che sabato ha avviato la procedura per il trasferimento d'ufficio del procuratore di Salerno Apicella e del procuratore generale di Catanzaro Iannelli, ieri ha ascoltato i 9 magistrati delle due procure coinvolti nella vicenda. Il presidente della commissione, Ugo Bergamo. Ovviamente quando c'è un ravvedimento operoso è sempre un fatto positivo, perché rende più disteso il rapporto fra procure, però in nulla ridimensiona il nostro dovere approfondire quanto è accaduto al fine di valutare queste potenziali incompatibilità funzionali e ambientali. Sempre martedì giunge un appello congiunto dei presidenti di Camera e di Senato, rivolto a tutte le forze politiche in campo, per trovare finalmente un terreno comune per una riforma della giustizia, di cui per la verità si parla da tantissimi anni, ma che poi non vede mai la luce. E intanto i problemi del nostro sistema giudiziario si amplificano. Mercoledì passa al contrattacco Berlusconi, che parla a tutto campo di giustizia, ma non solo, come spiega poi questo servizio che ascoltiamo di Elisabetta Fiorito, a seguire la cronaca di mercoledì in Parlamento firmata da Raffaella Calandra. No al dialogo con l'opposizione, nessun aumento del contingente in Afghanistan, la riforma della giustizia si farà anche da soli. Così il premier Silvio Berlusconi alla presentazione del libro di Bruno Vespa. Esordisce Berlusconi con una battuta: l'esecutivo è il paradiso, dice il premier, opposti i toni sull'opposizione. Ci vuole un cambio di generazione, credo, per poter avere in Italia una sinistra socialdemocratica. Quindi io, fin quando sarò al governo, non mi siederò mai a un tavolo con codesti individui. In Parlamento i gruppi possono tranquillamente collaborare. Porte spalancate all'UDC e a Pier Ferdinando Casini, ma, precisa Berlusconi, all'interno del Popolo della Libertà. Il contingente italiano in Afghanistan non aumenterà, dice il premier. Abbiamo allargato i caveat e i nostri soldati hanno più libertà d'azione. Mentre sulla giustizia Berlusconi ha intenzione di andare avanti anche a colpi di maggioranza. La Costituzione si cambia, i cittadini hanno la possibilità di giudicare quelle che saranno le nostre decisioni. Nel cantiere sempre aperto della riforma della giustizia, l'esecutivo preme sull'acceleratore e sull'onda del caso De Magistris, diventato per altri 5 PM di Salerno e Catanzaro una possibile causa di trasferimento, cerca attraverso il guardasigilli tutti gli appoggi interni e esterni alla maggioranza. Giornata di incontri e trattative ieri per il ministro della giustizia, che incassa innanzitutto l'apertura dell'UDC. Oggi si è aperto il tavolo sulle riforme, proclama il leader Pier Ferdinando Casini, che come clausola chiede nessun decreto imposto all'improvviso. Ai centristi e poi alla delegazione di Lega e AN, riottosi su molti punti, Alfano conferma la tabella di marcia. Ultima tappa, le modifiche costituzionali, con la separazione delle carriere e la riforma del CSM. Entro l'anno, invece, mettere mano al processo civile e penale, ha ripetuto al Question Time, annunciando anche nuove carceri. Stiamo lavorando ad un intervento di riforma del processo penale, mirando l'attuazione dei principi del giusto processo. Martedì prossimo, invece, il guardasigilli dovrebbe incontrare il ministro ombra della giustizia, Lanfranco Tenaglia, che non si sbilancia sulle trattative. Illustreremo, dice, le nostre proposte. Non c'è soltanto la giustizia in quest'ultima settimana politica. All'interno del Partito Democratico, per esempio, c'è il dibattito sulla questione morale. Poi si sparano le ultime cartucce in vista del voto di domani in Abruzzo per le regionali. Giovedì, infine, arrivano novità dal fronte della scuola. Alessio Maurizi nel GR delle 7 di ieri. Rinvio della riforma delle superiori al 2010, riorganizzazione degli istituti tecnici e riformulazione del maestro unico. Sono alcune delle novità emerse ieri nell'incontro tra il governo e i rappresentanti sindacali della scuola. Sul maestro unico, il ministro Gelmini e il sottosegretario Letta hanno presentato la nuova formula. L'insegnante diventerebbe prevalente, accompagnato da docenti di inglese e religione e da un altro insegnante nel caso del tempo pieno. Se non una retromarcia rispetto alla riforma Gelmini, almeno una novità significativa che riapre una possibilità di dialogo coi sindacati. Il segretario della CGIL Scuola, Mimmo Pantaleo. È un tentativo di retromarcia, non c'è dubbio. Basta pensare all'infanzia, dove si ritorna esattamente al modello che è attualmente in vigore. Sulle secondarie rinvia, invece il punto vero riguarda la primaria, su cui c'è un'apertura, nel senso che dici io offro una pluralità di opzioni sul tempo, però sulla questione del modulo dei tre insegnanti su due, così come è messa la cosa, si supera quel modello per andare verso un altro tipo di modello, quello del maestro prevalente, che sostanzialmente è una sorta di maestro unico. L'ottavo giorno. Domenica. La Grecia raramente è al centro delle cronache dell'ottavo giorno, ma domenica vi è proiettata improvvisamente per un fatto gravissimo che fa precipitare il paese, e in particolare Atene, nel caos. Anna Migliorati. Prima Atene, poi via via le altre città della Grecia. Una guerriglia che si è propagata con il passare delle ore, mettendo in scacco il paese. A far scattare la scintilla, l'uccisione di un quindicenne durante una manifestazione di anarchici in un quartiere già in passato teatro di tensioni. Secondo i racconti dei testimoni, due poliziotti dei corpi speciali dentro una camionetta sarebbero stati presi d'assalto. Uno dei due è sceso sparando. Un secco comunicato diramato dalla polizia dice che i due agenti hanno solo risposto all'attacco. Fatto sta che in poche ore la situazione è precipitata. Centinaia di persone sono scese in strada in una violenta guerriglia urbana. E dopo Atene, altre proteste ed altri scontri con feriti tra agenti e manifestanti a Patrasso, Salonicco e via via le altre città greche. Ovunque bruciati negozi, assaltate banche, con la polizia a lanciare lacrimogeni. A nulla è servito neppure l'arresto dei poliziotti. A nulla è valso anche l'intervento del ministro dell'interno Pavlopoulos. Un paese nel caos a poche ore dallo sciopero generale già in programma per mercoledì contro la crisi economica. Mentre si parla di elezioni anticipate e i sondaggi pronosticano una sempre più severa sconfitta del partito del premier. Il giorno dopo l'uccisione del ragazzo di 15 anni, la situazione ad Atene rimane incandescente. Sentiamo le parole dell'inviato del Sole 24 Ore, Vittorio Darold, che sono eloquenti. Questo è il suo intervento in diretta nel GR delle 19 di lunedì. La capitale greca è praticamente sotto assedio. I manifestanti hanno adesso preso d'assalto, tentato di prendere d'assalto il Parlamento. La polizia ha fatto cordone, ha lanciato dei gas lacrimogeni e li ha respinti, e i manifestanti si sono ritirati bruciando i cassonetti dei rifiuti e cercando di appiccare fuoco anche a delle vetrine e soprattutto prendendosela con gli istituti finanziari e le banche. La situazione quindi sta la tensione sta crescendo in attesa del mercoledì, quando ci sarà lo sciopero generale. Il servizio di Anna Migliorati e anche la cronaca di Darold fanno riferimento allo sciopero generale di mercoledì in Grecia, che forse è il momento di massima allerta dell'intera settimana. Tra poco sentiremo proprio il racconto della lunga giornata di passione di mercoledì. Ma prima sentiamo invece uno dei tanti commenti raccolti da Radio 24. Infatti lunedì, giornata in cui 2000 persone partecipano ai funerali di Alexis Grigoropoulos, Cristina Balotelli parla con Caterina Carpinato, docente di greco moderno all'Università Ca' Foscari di Venezia. Ecco la sua opinione sulle rivolte di Atene. Non credo che sia una protesta organizzata da un gruppo o da un partito politico. Non credo che ci sia tanta crudeltà organizzata che sta aspettando la goccia per far scoppiare il caso. Credo che comunque la situazione greca e il modo di partecipare dei greci alle manifestazioni pubbliche, alle cortei, alle proteste sono sempre molto più accentuate di quanto non lo siano da noi, perché hanno avuto un'esperienza di dittatura militare. Poi c'è una forte componente anarchica, il quartiere nel quale sono sviluppati questi scontri è un quartiere centrale molto vivace, ci sono la maggior parte delle librerie, delle case editrici, il quartiere di Exarchia, con una piazza che tradizionalmente riunisce i giovani del mondo dell'estrema sinistra o anche del mondo anarchico. Ancora ieri si sono registrati disordini, ma come detto prima il giorno cruciale della settimana è mercoledì, quando va in scena lo sciopero generale. Ancora da Atene un servizio di Vittorio Darold. Uno sciopero generale di 24 ore ha paralizzato la Grecia, aerei, traghetti, trasporti pubblici, scuole, ospedali, banche, tutto si è fermato per protestare contro la politica economica del governo di centrodestra Karamanlis, che sopravvive con un solo voto di maggioranza. La protesta si è unita ai 4 giorni di guerriglia urbana scatenate dall'uccisione da parte della polizia di un giovane di 15 anni. L'avvocato difensore di uno dei 2 poliziotti incriminati ha affermato che secondo la perizia balistica il colpo mortale sarebbe stato di rimbalzo, provando quindi la accidentalità dello sparo. La procura però ha smentito che ci siano risultati ufficiali, mentre è scoppiata la polemica con accuse reciproche di voler depistare le indagini. Una nuova polemica in un momento già particolarmente difficile. Appare evidente a tutti che in ogni caso una fase politica è finita e tocca ora alle forze politiche trovare una via d'uscita, rimpasto o elezioni anticipate. La crisi dell'anello debole di Eurozona non aspetta, i differenziali di rendimento tra titoli italiani, greci e bund tedeschi su un titolo decennale parlano chiaro. L'Italia paga oggi 130 punti base sopra il bund, mentre la Grecia ne paga ben 170 punti in più e il differenziale tra Italia e Grecia si sta allargando. Lunedì. Dalla Grecia ci spostiamo in Irlanda, che è al centro di un caso di contaminazione alimentare che fa subito il giro del mondo, fa scattare l'allarme in tutta Europa, Italia compresa. Sentiamo il servizio di Roberta Pellegatta. È stata una contaminazione del mangime agli inizi di settembre a provocare livelli molto alti di diossina nel 10% della carne di maiale irlandese. L'Irlanda ha provveduto preventivamente a ritirare dal commercio tutta la carne suina prodotta dal 1° di settembre. Nel frattempo, partite contenenti diossina sono di certo arrivate in Francia, Belgio e in Inghilterra. Terra, paese che assorbe quasi la metà delle esportazioni suine irlandesi. Ma, fa sapere il responsabile dei servizi veterinari irlandesi, Paddy Rogan, carne suina contaminata potrebbe essere stata esportata in 25 paesi. Immediata in Europa l'attivazione del sistema di allerta. Pietro Petrucci, portavoce della Commissione europea. Sono scattati dei controlli che sono di routine sui mercati e alle frontiere. L'incidente è di una certa serietà. Non c'è rischio per la salute, cioè la quantità di diossina, anche se è molto superiore alla norma, però dicono gli esperti, non espone la salute umana a un rischio immediato. Bisognerebbe mangiarla sistematicamente per un certo periodo per avere dei problemi. Martedì ci sarà una prima riunione del sistema d'allerta rapida. Bisognerà vedere quali sono i paesi dove i riscontri sono stati positivi. Insomma, alla domanda qual è la massima misura precauzionale, è la messa al bando dell'intera produzione di carne di maiale irlandese da settembre fino a oggi. Dopo l'esplosione del caso in Irlanda è inevitabile che i controlli scattino un po' dovunque, quindi anche in Italia, assieme peraltro ad una buona dose, forse non sempre giustificata, di paura. Sentiamo allora il servizio di Alessandra Tedesco che fa il punto della situazione di lunedì sera. La parola d'ordine è tranquillizzare. Dal Ministero del Welfare alle associazioni di allevatori tutti sono d'accordo nel dire che i rischi per i consumatori italiani sono quasi nulli. Dal 1 settembre sono entrate nel nostro paese 22 partite di carne di maiale irlandese. Ora sono tutte sotto sequestro. È possibile certo che una parte sia già in commercio ed è per questo che le verifiche dei NAS vanno avanti. Intanto il sottosegretario alla salute Francesca Martini ha attivato controlli anche per la carne bovina, visto che in Irlanda una partita di mangime contaminato da diossina potrebbe essere stata destinata proprio a questi animali. La Commissione non ha ancora assunto decisioni, noi comunque intensifichiamo i controlli su tutte le carni provenienti dall'Irlanda. Il nostro è solo un principio di precauzione. Anche per i bovini rischi modesti, visto che dopo il caso della mucca pazza, l'Italia importa dall'Irlanda meno dell'1% sul totale delle carni bovine acquistate all'estero. In questo caso, comunque, il consumatore può sempre leggere l'etichetta che indica la provenienza, obbligatoria per carne bovina e pollame. Non c'è obbligo invece per carne di maiale, coniglio e agnello. Il Ministero del Welfare martedì precisa che non sono state sequestrate tutte le 22 partite di carne suina irlandese giunte in Italia dal 1 di settembre. Quindi è inevitabile, i controlli procedono. In particolare le ASL attuano sequestri in Veneto, Emilia-Romagna e in Campania. In Campania a decidere i sequestri è soprattutto l'Istituto Zooprofilattico di Portici. Marco Lignana ha intervistato Antonio Limone, commissario dell'Istituto. Abbiamo individuato le prime 4 partite che erano destinate ad alcuni salumefici del Baianese. Ma noi in Campania non abbiamo fatto questa cosa con impegno, ma non abbiamo una grande difficoltà. In realtà ci sono solo 7 salumifici che lavorano tra Campania e Basilicata, carni che provengono dall'Irlanda. Abbiamo una percentuale di carni forane che provengono dall'Irlanda, suine, dello 0,7% rispetto alla lavorazione complessiva, e quindi questo un po' ci rassicura. La carne doveva essere trasformata per farla diventare prosciutti o insaccati, e questa carne, che non è stata mai lavorata, è stata piombata e messa sotto sequestro. È probabile che dopo si avvierà a distruzione. Lei ha sentito i proprietari di questi salumifici? È evidente che loro hanno danni, ma da questo meccanismo non si scappa. Nel meccanismo del villaggio globale dobbiamo essere, come dire, rassegnati al rischio. La verità è che però dal rischio si riduce quando l'attività analitica e i controlli sono serrati. Mercoledì si registrano altri effetti dei controlli a tappeto delle autorità competenti. Sentiamo da Taranto Vincenzo Rutiliano. Latte e carni contaminate dalla diossina in 8 allevamenti ovini posti a qualche chilometro dalla zona industriale di Taranto. Così oggi è iniziata la macellazione di 1600 tra capretti, agnelli e pecore che dopo i controlli del Dipartimento Prevenzione dell'ASL erano risultati positivi nei mesi scorsi a percentuali di PCB e diossina superiori alla media. Dopo il divieto di macellazione e di produzione dei derivati del latte, è arrivato oggi l'abbattimento e lo smaltimento affidato dalla Regione Puglia al costo di 160.000 euro ad una ditta di Conversano. Sul punto il gruppo siderurgico Ilva di Taranto rifiuta ogni nesso con le pecore alla diossina degli allevamenti posti in un raggio di alcuni chilometri dei suoi impianti. La società di Ilva diffida infatti chiunque dal porre tale correlazione fino a che gli esami non avranno stabilito la paternità delle diossine. Purtroppo però, sempre in Puglia, la carne a rischio finisce addirittura in vendita come wurster o salumi. Sentiamo allora il commento di Zaccaria di Taranto, direttore del servizio veterinario dell'ASL di Foggia, qui al microfono di Marco Lignana. Ieri mattina il servizio veterinario di cui io sono il direttore ha effettuato il sequestro presso uno stabilimento in un comune della provincia di Foggia. Abbiamo sequestrato circa 1850 kg di salumi, e da oggi stiamo sequestrando negegli esercizi commerciali di tutta la regione Puglia gli altri prodotti consegnati dalla ditta di cui parlavamo prima. È scattato il sistema di allerta, sono stati avvertiti tutti i servizi veterinari dell'ASL, è stata avvertita la regione, il ministero, per cui contiamo che nel giro di 48 ore massimo fino a domani tutti i prodotti saranno tolti dal commercio. faccio. Stiamo parlando di carne di maiale? Carne di maiale irlandese, di una di quelle partite che è arrivato nella provincia di Foggia. È arrivata una sola partita. Quindi questa partita può essere finita appunto nei supermercati e può essere già nelle tavole di qualche italiano? Certo, di qualche... E noi li stiamo, comunque li stiamo con il sistema del diciamo dei lotti, di produzione dei lotti. Sappiamo adesso quali sono i negozi, gli esercizi commerciali dove si vende questo prodotto e li stiamo sequestrando. In quanti punti vendita è stato già commercializzato Ma questa partita? Più o meno sui 130-150 punti vendita, in tutta la regione Puglia però. E queste carni erano tutte in insaccati? Erano insaccati, sì. È stato lanciato un avvertimento a quei cittadini che possono aver già comprato la carne? Un po' la stampa locale, un po' le televisioni locali stanno dando questa notizia, ma tutto sommato tranquillizzando un po' i consumatori. Nelle cronache che abbiamo riascoltato fin qui del caso di Ossina dell'Irlanda, finora abbiamo oscillato tra allarmismo e rassicurazioni. Mercoledì finalmente si pronuncia l'Unione Europea. Un servizio di Marco Lignana. Nessun pericolo per i consumatori. Dopo neppure 48 ore di studio, l'EFSA, l'Agenzia per la Sicurezza Alimentare Europea, tranquillizza gli animi del vecchio continente. Nel caso la carne a rischio fosse già finita nei punti vendita, come è avvenuto ad esempio in Puglia, l'organismo umano non ne risentirebbe. Rita Maijala, direttore del Dipartimento sulla valutazione del rischio dell'Agenzia Europea. EFSA can conclude that we don't see any health concerns for the vast majority of consumers. L'EFSA può concludere che non ci sono rischi per la stragrande maggioranza dei consumatori. Anche nel caso più estremo, cioè se qualcuno avesse ingerito una grande quantità di carne suina al massimo grado di contaminazione di diossina, non ci sarebbero conseguenze per la salute. Intanto il sottosegretario alla salute, Francesca Martini, conferma che tutte le 90 partite a rischio in Italia sono state rintracciate. L'ottavo giorno. Martedì. Una grana improvvisa e molto scomoda piomba sulla testa di Obama, il presidente eletto degli Stati Uniti. Non è ancora presente in carica, ma già deve far fronte a mille difficoltà Obama, non soltanto sul piano economico, e tra poco ne parleremo. Il duro colpo di martedì fa ancora più effetto perché arriva da Chicago, la città proprio di Obama, da cui sono partite la sua ascesa e la sua battaglia per il cambiamento e la trasparenza. Sentiamo allora il racconto di Paolo Panceri. Avrebbe cercato di vendere il seggio al Senato degli Stati Uniti lasciato vacante nell'Illinois da Barack Obama dopo l'elezione alla presidenza dell'America. Per questo è finito in manette, con l'accusa di corruzione e frode, il governatore democratico dell'Illinois Rod Blagojevich, 51 anni. La clamorosa decisione è arrivata dopo un'indagine durata 3 anni su possibili casi di corruzione nell'amministrazione di Blagojevich. Gli agenti federali hanno arrestato anche il capo di staff del governatore, John Harris. Nel corso dell'indagine sono state intercettate le conversazioni telefoniche del governatore, che ha sempre sostenuto di non aver commesso alcun reato. Blagojevich, governatore dell'Illinois dal 2003, è stato anche deputato alla Camera dei Rappresentanti ed è stato il primo democratico a conquistare il governo dello Stato dopo oltre 30 anni. Giovedì Obama prende pubblicamente le distanze dall'operato di Blagojevich, per tutti ormai ribattezzato Blago, e ci mancherebbe. Intanto il Partito Democratico è orientato verso l'impeachment e il procuratore generale chiede proprio la rimozione del governatore dell'Illinois. Sul versante economico, invece, negli Stati Uniti sono i giorni del piano di salvataggio per le 3 grandi case automobilistiche di Detroit, le cosiddette tre sorelle Ford, General Motors e Chrysler. Nel marasma di questi giorni abbiamo addirittura visto in chiesa a Detroit, nella Great Grace Temple, delle automobili piazzate davanti all'altare e un vescovo fare un sermone chiamato Speranza Ibrida. Ma torniamo al piano di salvataggio delle auto, i dettagli in questo servizio di Maria Luisa Pezzali in onda martedì. Nella notte è stato raggiunto un accordo di principio, restano da definire solo i dettagli. Potrebbe arrivare oggi la firma del presidente Bush al piano di salvataggio del settore auto da 15 miliardi di dollari, frutto dell'intesa tra Congresso e Casa Bianca. Le condizioni perché General Motors e Chrysler possano accedervi, la Ford per ora dice di non averne bisogno, sono queste. Tetti ai compensi dei manager, niente jet privati, 0 dividendo agli azionisti e, soprattutto, una partecipazione del 20% in mano allo Stato. Se non è una nazionalizzazione, c'è molto vicina, ha scritto il New York Times. Uno degli elementi chiave del piano di aiuti è lo zar dell'auto, una figura di nomina presidenziale per la supervisione dell'utilizzo dei fondi da parte dei colossi di Detroit. Candidato numero 1, l'ex presidente della Fed e consulente economico speciale di Obama, Paul Volcker. Mercoledì arriva il sì della Camera con 237 voti favorevoli e 170 contrari. Il progetto di legge autorizza fino a 15 miliardi di dollari di interventi. Giovedì però il Senato vota in modo completamente diverso da New York. Marco Valsania. I negoziati al Congresso americano per varare aiuti a Detroit sono falliti, democratici e repubblicani. Non sono riusciti a trovare un accordo per stanziare 14 miliardi di dollari soprattutto per General Motors e Chrysler, che potrebbero essere costrette dalla crisi all'amministrazione controllata entro fine anno, mentre Ford chiedeva soprattutto linee di credito per il futuro. L'ostacolo insuperabile è stata la richiesta dei senatori repubblicani di imporre condizioni molto più dure per la ristrutturazione di Detroit, in particolare al sindacato e agli obbligazionisti, ai creditori. I repubblicani chiedevano che il sindacato accettasse di tagliare i compensi dei dipendenti dell'auto per portarli entro il 2009 in parità con i concorrenti stranieri, in particolare le case giapponesi. Obama ieri si è detto molto dispiaciuto del mancato accordo al Senato e ha chiesto uno sforzo per trovare finalmente un'intesa. Obama però si muove anche su altri fronti, per esempio quello delle infrastrutture, come spiega questo servizio andato in onda sabato scorso di Sergio Nava. Un grande piano di investimenti pubblici, il maggiore da 50 anni a questa parte, perché, come spiega il presidente eletto degli Stati Uniti, we need action. And action now. Occorre passare all'azione e farlo subito. Obama prende la palla al balzo il giorno dopo le pessime rilevazioni sull'occupazione, con oltre 500.000 di posti di lavoro persi a novembre, e rende chiaro il suo raggio di intervento. Today I'm announcing a few key parts of my plan. Annunciando alcuni punti del suo piano economico volto a creare 2.5 milioni di posti di lavoro entro il 2011, un programma per rendere più efficienti energeticamente gli edifici pubblici, riducendo le maxi bollette statali e in grado di creare nuovi posti di lavoro, un maxi piano di investimenti nelle infrastrutture nazionali, il maggiore dalla costruzione del sistema autostradale negli anni 50, infine uno sforzo per la modernizzazione degli edifici scolastici e per portare la banda larga e la connessione internet a tutti, in particolare agli ospedali, così da modernizzare anche il sistema sanitario. Che l'entusiasmo intorno al prossimo presidente non accenni a calare lo dimostra il numero di curricula inviato per lavorare nella prossima amministrazione, oltre 300.000, 100 volte in più rispetto ai posti disponibili. Mercoledì. Ormai non ci sono più giri di parole, l'Istat certifica in modo inequivocabile che l'Italia è in recessione. E sentiamo allora i servizi prima di Anna Marino e poi di Valeria De Rosa. Il quadro dell'Istat rende ufficiale la recessione per il nostro paese, dove il prodotto interno lordo scende dello 0,5% per il secondo trimestre consecutivo. Ma i dati negativi per l'Italia non si fermano qui. Secondo l'Istituto di Statistica, infatti, il PIL è anche in calo rispetto all'anno scorso dello 0,9%. E in picchiata è la produzione industriale, con un calo del 6,7% su base annua, il dato peggiore dal dicembre del 1996. I consumatori spendono di meno, calano le esportazioni, le aziende riducono la loro attività e i settori produttivi soffrono. Quello dell'auto frana a ottobre con un meno 34% rispetto allo stesso mese del 2007, giù la produzione dei mezzi di trasporto e a seguire cali per quella di pelli e calzature, tessile, abbigliamento, gomme, materie plastiche, legno, ma anche servizi ed edilizia. Intanto aumenta il ricorso alla cassa integrazione ordinaria nell'industria, più 253,36% solo a novembre, e per Confindustria il dato della produzione industriale calerà dell'11,4% a novembre rispetto all'anno scorso, ancora un peggioramento. Produzione industriale in caduta libera a ottobre e andrà anche peggio a novembre. Secondo il centro studi della Confindustria, il calo supererà l'11% rispetto a un anno fa. Ci aspettiamo una contrazione più forte e questo ci sembra abbastanza inevitabile. Siamo effettivamente nel momento più buio della crisi e quindi tutto quanto converge in questa direzione, anche se ci sono alcuni segnali di consumo che tiene sostanzialmente. A parlare Luca Paolazzi, direttore del centro studi, che per il quarto trimestre prevede una contrazione del prodotto interno lordo dello 0,8%. Il numero uno di Viale dell'Astronomia, Emma Marcegaglia, chiede al governo misure per favorire gli investimenti privati, ma soprattutto ammortizzatori sociali per tutti i lavoratori. Il presidente Berlusconi risponde che l'esecutivo sta lavorando, ma ricorda che il bilancio è stretto. Incalza la CGIL, sta arrivando la valanga, secondo il segretario Epifani, e l'aumento della cassa integrazione, che al momento interessa circa 350.000 lavoratori, ne è la conferma. Il panorama in Italia è davvero cupo, l'orizzonte economico non promette nulla di buono. Ma se poi arrivano sempre mercoledì i primi segnali di crisi persino dalla Cina, cioè il paese che questi anni ha corso più di tutti, si capisce davvero che le difficoltà sono globali. Da Pechino il servizio di Antonio Talia. Anche la Cina entra in crisi? Il governo cinese ha annunciato oggi che in novembre le esportazioni sono calate del 2,2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Si tratta della prima flessione registrata negli ultimi 7 anni, da quando, nel giugno 2001, l'export era sceso lievemente dello 0,6%. Il governo aveva varato lo scorso 9 novembre un imponente piano straordinario da 4 trilioni di yuan, circa 453 miliardi di euro, mentre la banca centrale aveva avviato una politica monetaria moderatamente espansiva, ma la domanda estera di merci cinesi è comunque calata. Alcuni pessimi segnali si erano già registrati nei mesi scorsi, quando in diverse province si erano verificati incontri in seguito alla chiusura di molte fabbriche, ma la vera prova del 9 potrebbe arrivare subito dopo il capodanno cinese, che quest'anno cade il 15 gennaio. Se gli immigrati delle province più povere, che in occasione di questa festività tornano tradizionalmente a casa, non faranno rientro nelle province industriali a causa della mancanza di lavoro, allora significherà che Pechino ha troppi problemi interni per guidare la lotta alla crisi globale. Sul versante economico in quest'ultima settimana non bisogna però sottovalutare le mosse rese ufficiali nel fine settimana scorso della Libia. Sentite Giuseppe Oddo. La Libia acquisirà attraverso un suo fondo sovrano una quota rilevante del capitale dell'ENI nell'ambito di un'operazione concordata con il governo italiano. Tripoli dovrebbe acquisire inizialmente il 5% della compagnia petrolifera controllata dallo Stato, per poi passare all'8% e in una fase conclusiva ancora da verificare al 10%. Con questa quota la Libia è destinata a posizionarsi al secondo posto nell'azionariato dell'ENI subito dopo lo Stato. L'operazione, che ha già avuto il via libera del governo, è stata seguita dal ministro dell'economia Giulio Tremonti, che ha tenuto sempre informato il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. L'operazione è strategica per la Libia, che ha molta liquidità da investire e vuole rafforzare i rapporti con un'azienda che opera nel paese da 50 anni, ma è strategica anche per il gruppo ENI, che in Libia produce le maggiori quantità di greggio e gas naturale su scala mondiale e dovrà investire nei prossimi anni circa 15 miliardi di euro. Siamo in crisi, ormai l'abbiamo capito, lo si vede da tante piccole grandi cose un po' ovunque, e Radio 24, bisogna dirlo, ogni giorno racconta le manifestazioni di questa crisi. Una delle principali è rappresentata dal calo dei consumi, che viene certificato sabato. Ma a leggere questi dati in controluce si scoprono anche delle sorprese. Sentite Valeria De Rosa. Spendiamo meno, e questa non è più una novità. A ottobre i consumi hanno frenato per l'ottavo mese consecutivo, però la voce beni e servizi ricreativi mette a segno un più 2,4%, grazie alla forte crescita della spesa per giochi e premi. Dietro questa voce si nasconde il Superenalotto, per il quale, rileva Confcommercio, la spesa è aumentata di circa il 230% rispetto alla media mensile degli ultimi 2 anni. In altre parole, con quel poco in più che ci si può permettere, si tenta la fortuna. Vedi mai che si riesca a cambiare vita, o almeno ad addolcirla un po'. Nel frattempo la vita di tutti i giorni continua e bisogna mangiare, vestirsi e spostarsi. E nonostante la flessione dei prezzi, i consumi non si muovono, facendo apparire le prospettive per i prossimi mesi davvero poco incoraggianti. Soffre il settore dell'auto, meno 14% circa rispetto a ottobre 2007, e soffrono anche alimentari e abbigliamento. Il settore che riesce a rimanere a galla? Beni e servizi per le telecomunicazioni, la crescita è del 6,6%. Come dire, toglieteci tutto, ma non la connessione con il mondo. E allora, per chiudere questa pagina economica della settimana, ripercorriamo la giornata di ieri delle borse con Anna Marino. Le borse europee hanno limitato le perdite ed evitato il venerdì nero, proprio in seguito alla notizia che la Casa Bianca sta considerando l'ipotesi di utilizzare una parte dei 700 miliardi di dollari del piano Paulson per salvare i big dell'auto dopo il no del Senato. Hanno chiuso comunque in negativo l'ultima seduta della settimana, influenzate dall'andamento altalenante di Wall Street, che in questo momento è positiva. Dow Jones guadagna lo 0,34% e il Nasdaq l'1,39%. In ogni caso, sono stati in sofferenza in Europa i bancari dopo l'annuncio di Bank of America del taglio di 35.000 posti di lavoro nei prossimi 3 anni, perdite sul finale per i listini europei oltre 2%, negativa Francoforte con meno 2,18%, Parigi meno 2,80% e Londra meno 2,47%. Il MIBTEL ha chiuso a meno 2,32% e non fa eccezione neppure Milano. Ed è tutto. L'ottavo giorno. Giovedì. È una giornata terribile per il maltempo che si abbatte violentemente in molte parti d'Italia e purtroppo provoca anche delle vittime. Cominciamo da Roma, dove viene dichiarato lo stato di calamità generale. Il servizio è di Francesca Malaguti. È l'alba quando i vigili recuperano il corpo di una donna intrappolato nella sua auto in una galleria di Monte Rotondo, nella provincia romana. Il veicolo è sommerso da 4 metri d'acqua. La proprietaria è annegata, vittima del violento nubifragio che ha investito la capitale e tutta la regione durante la notte. Ma la pioggia continua a cadere anche per tutto il giorno seguente. Non si contano gli allagamenti, più di 300 gli interventi dei vigili del fuoco. Il traffico cittadino è in tilt per tutta la giornata, soprattutto in periferia. In centro i mezzi pubblici passano a intervalli lunghissimi, c'è folla alle fermate. La metro ci ha messo più di mezz'ora per arrivare. Stanotte è un disastro. L'autobus che ha impiegato molto tempo ad arrivare e alcune strade erano allagate e aveva difficoltà a passare. Nel pomeriggio la CGIL revoca lo sciopero del trasporto locale per Roma e provincia e di quello ferroviario in tutta Italia previsti per oggi, su invito del sindaco Alemanno. Il capo della Protezione Civile annuncia un'ondata di piena del Tevere attesa in queste ore. Abbiamo sufficiente tempo per mettere, se necessario, in pratica misure finalizzate ovviamente a proteggere la cittadinanza e il territorio. I problemi col maltempo sono anche al sud, in particolare Puglia, Sicilia e Calabria sono colpite dai disagi. Particolarmente critica la situazione nella piana di Gioia Tauro, siamo in provincia di Reggio Calabria, dove per l'esondazione di un fiume 40.000 persone sono addirittura senza acqua potabile. Sentiamo Pino Praticò, comandante della Protezione Civile di Gioia Tauro, al microfono di Monia Melis nel GR delle 13 di ieri. Il fiume del denominato Budello è uscito fuori dai margini, però ha colpito fortunatamente soltanto alcune abitazioni che erano vicine con alcuni negozi, quindi i danni si sono un pochino contenuti lì. Fortunatamente questa mattina alle 2 è rientrato, però un'infiltrazione di acqua anche del fiume è entrata dall'acquedotto, dove già ieri sera alcuni rubinetti delle abitazioni l'acqua era un pochino rossastra. Allora per un'emergenza è stata sospesa sia l'erogazione dell'acqua per tutta la mattinata, anche il pomeriggio finché non si rinnovano i tubi. Le scuole sono state chiuse, questo in alcuni centri, non solo a Gioia Tauro ma anche nella piana di Gioia Tauro, oggi e domani, perché non sono impraticabili le strade, quindi gli studenti che sono pendolari, alcuni pendolari anche i professori e maestre, non possono arrivare sui posti di lavoro. Anche ieri è stata una giornata molto complicata per via del maltempo e allora risentiamo gli aggiornamenti nel GR delle 19 di ieri. Lo hanno detto i vigili del fuoco, secondo cui comunque il pericolo maggiore sarebbe scongiurato. Comunque rimane l'allerta qui a Ponte Milvio perché anche a occhio nudo il livello dell'acqua rimane altissimo e il culmine, lo avete detto, è atteso tra le 22 e le 24. Intanto sono state evacuate in via precauzionale alcuni edifici vicini al fiume come l'Università Luiss e l'ex Ministero della Sanità sul lungo Tevere. Evacuate invece per l'esondazione di acqua dalle fognature alcune zone della Magliana, alla periferia ovest di Roma. Proprio per le esondazioni delle fognature vengono i timori più grossi, più che dalla esondazione dagli argini che la Protezione Civile continua ad escludere. Venerdì. È il giorno tanto atteso, sospirato, dell'accordo sul clima al vertice europeo di Bruxelles. Ma l'intesa dei 27 paesi non è cosa semplice in una settimana invece in cui delle nazioni, tra cui per esempio l'Italia, anzi direi l'Italia in primo piano, cercano fino all'ultimo di limare il documento conclusivo. Giusto per capire, ecco la posizione italiana di lunedì in questo servizio di Davide Briglio da Bruxelles. Si sono fatti passi avanti tra i 27 governi europei nella marcia a tappe forzate per arrivare a un accordo sul pacchetto clima per il post Kyoto al prossimo summit europeo dell'11 e 12 dicembre a Bruxelles. Ma dal punto di vista italiano restano alcuni importanti nodi da sciogliere dopo gli incontri dei ministri europei degli affari esteri e dei responsabili dell'energia. L'Italia non è ancora soddisfatta, ha annunciato il ministro degli esteri Franco Frattini, sottolineando l'importanza di avere certi settori dell'industria manifatturiera esclusi dall'obbligo di ottenere solo a pagamento i permessi per le emissioni di anidride carbonica. E importante anche maggiore gradualità negli oneri per le centrali termoelettriche. Il ministro dello sviluppo economico Claudio Scajola ha però osservato che nonostante alcuni punti importanti restino aperti, progressi giganteschi sono stati fatti dal punto di vista italiano. Accettata per esempio dai 27 la clausola di revisione al 2014 sulle energie rinnovabili richiesta dall'Italia e la possibilità di conteggiare investimenti in tecnologie pulite fatti nei Balcani e nel bacino mediterraneo. L'intesa finale, insomma, non è da dare per scontata, ma appare più vicina. Nella contesa per il clima interviene direttamente Barroso, che vuole in qualche modo stringere i tempi, serrare i ranghi e anche richiamare all'ordine quelle nazioni, per esempio l'Italia, che non sembrano disposte fino all'ultimo a firmare. Sentiamo Valentina Furlanetto. Barroso mantiene la linea della fermezza. Il presidente della Commissione europea ha detto che gli obiettivi del pacchetto clima dell'Unione non sono negoziabili. Soprattutto, ha aggiunto, ora che gli Stati Uniti con il presidente eletto Barack Obama si stanno avvicinando a posizioni europee. Ci sono anche delle aperture però verso coloro i quali hanno invece lamentato eccessivi costi. Il presidente della Commissione europea ha spiegato che è necessario garantire un'equa distribuzione dei costi del pacchetto. E quindi a Bruxelles giovedì e venerdì si parlerà del 20-20-20. I tre obiettivi: la riduzione di gas serra del 20% entro il 2020, il miglioramento del 20% dell'efficienza energetica e il 20% di energia rinnovabile nel consumo energetico entro il 2020. Su quest'ultimo punto è stato raggiunto un accordo tra Consiglio, Commissione e Parlamento europeo. Nel documento di compromesso è stata inserita la clausola di revisione chiesta dall'Italia, come indicato lunedì dal ministro Scajola. Valentina Furlanetto, GR24, Il Sole 24 Ore. Mentre prosegue a Bruxelles la discussione sul fronte del clima, mercoledì arrivano pessimi voti per l'Italia. Sentite Cristina Balotelli. È un rapporto disastroso per l'Italia, quello del Climate Change Performance Index, che la piazza al 44esimo posto nella classifica dei 57 stati a maggiori emissioni di CO2. In altre parole, il nostro paese è in fondo alla classifica di quelli che producono il 90% dei gas serra a livello mondiale. Gli obiettivi del protocollo di Kyoto sono dunque sempre più lontani per l'Italia, la cui soglia della sufficienza si allontana di anno in anno. In merito agli interventi attuati da ogni paese nel campo del riscaldamento, l'Italia si trova davanti a India e Brasile e dietro a noti inquinatori come Polonia e Cina, ben distante da Svezia, Germania e Francia. Ma per il nostro governo, come sottolinea il ministro dell'Ambiente Stefania Prestigiacomo, la vera sfida sui cambiamenti climatici va saldata con quella per la crescita economica dei paesi in via di sviluppo. Insomma, la vera sfida vedrà al tavolo del negoziato i paesi che da soli rilasciano nell'atmosfera il 60% dei gas serra, Cina, Stati Uniti, India e Russia, e le molte economie in crescita come Brasile, Corea o Indonesia. A forza di insistere, a forza di trattare, si arriva finalmente ieri all'accordo sul clima. I dettagli in questo servizio di Sergio Nava. Un accordo storico, così il presidente di turno europeo Nicolas Sarkozy ha definito il doppio via libera dei 27 paesi dell'Unione ai due pacchetti, quello anticrisi e quello su clima ed energia. Sul piano anticrisi il vertice ha dato l'ok a misure di fatto già stabilite nelle settimane precedenti, fissandone l'ammontare a 1,5% del PIL europeo, 200 miliardi di euro. Il negoziato più duro si è giocato sul pacchetto climatico, riaffermati gli obiettivi da raggiungere nel 2020, taglio del 20% sulle emissioni di gas serra, con contestuale incremento della quota di rinnovabili e dell'efficienza energetica alla stessa percentuale. Mantenuti i capisaldi, sono scattate le deroghe su pressione italiana, tedesca e dell'est Europa. L'Italia, tra i paesi in maggiore ritardo su Kyoto, ottiene una gradualità nelle emissioni per industrie giudicate non a rischio di delocalizzazione, che pagheranno quote crescenti per le emissioni dal 20% nel 2013 al 100% nel 2025, mentre su pressione tedesca quelle a rischio delocalizzazione potranno beneficiare dei diritti di emissione gratuiti al 100%. Il premier Berlusconi, ringraziato da Sarkozy, aggiunge un'altra clausola. Abbiamo ottenuto che dopo Copenaghen, già nel marzo del 2010, ci sia una rivisitazione globale di queste misure sulla base dei risultati di Copenaghen. Infine la questione del Trattato di Lisbona. L'Irlanda, in cambio di una serie di garanzie, ha annunciato che rivoterà entro il novembre del prossimo anno per salvare il testo bocciato lo scorso giugno. Per chiudere questa nostra puntata manca all'appello soltanto l'ottava notizia, che ci porta a parlare di una storia di censura che coinvolge la RAI, definita per esempio dal giornale britannico The Guardian una TV conservatrice, e di un film pluripremiato, campione di incassi e molto amato dalla critica. Paolo Scandale. Se tu volessi potrebbe essere così, per sempre. Voi non andavate a pescare. Tu non puoi capire. Ma nella versione di Brokeback Mountain, mandata in onda ieri sera su Rai 2, non c'era nessun segreto da capire. I tagli delle scene di baci e di altri riferimenti alla relazione omosessuale dei due protagonisti hanno cambiato il volto del film del regista Ang Lee, una censura che ha causato la protesta del mondo gay, che ha accusato la TV di Stato di omofobia. Aurelio Mancuso, presidente nazionale dell'Arci Gay. Un film che ha ricevuto il Leone d'Oro, 3 Oscar, 4 Golden Globe, non si può censurare impunemente. O non si trasmetteva perché non si riteneva adatto al pubblico italiano, o se no lo si trasmetteva integro, cioè come è stato trasmesso e proiettato nelle sale italiane 3 anni fa. Un'opinione condivisa anche dall'onorevole Franco Grillini, presidente di Gaynet, che ha chiesto alla RAI di rimandare in onda al più presto una versione integrale del film. L'ottavo giorno si chiude qui, ricordo la mail ottavogiorno@radio24.it a cui potete scriverci. Io ringrazio Giacomo Spunta in regia. Da parte di Emiliano Enrico, l'appuntamento è alla settimana prossima alla stessa ora, sempre su Radio 24.